cos'è sta canzone? No. Che non lo so. È inglese. Della nostra recita. Cantate in inglese. Grandma, you can be. Yes. Grandma, you can be. Grandma, you can be. Non è che ci facciamo male, Linda, no, no? Voglio vedere la pizza fuori. Mamma, io... Qual è la pizza? Giacco, con è vero, c'è la pizza! Oh, questa è la pizza sopra, non l'avevo capito. È vero! No. No. Tra... A me sembra una fragola. Ok, noi siamo signori. Ma uno c'ha fame.